Maele, maele, maele, maele, maele, yo pensa Porto Bambe, la cantina Nino, Polina Casali, Bigio. Bimbi José, manga manga manga manga mwana mama. Maele maele maele, maele maele maele. Yo pesa kanga sango ya kiende oye. Etika limoko wali saka, kenga mope. Tina nina tina kata mukanda te. Maele maele maele, yo pelpegere. Maele maele maele, yo pesa. Sangona manda kaketa boti mwana e. Maele maele maele, apinyali e. Maele maele maele, yo pesa kaka sango ya kiambe oye. Wolo, malimbo malimbo malimbo malimbo, atoma kope paye. Pensa, sangona, sozi, moqueta, bote, mona, maele, maele,